Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Giorgio Mulet, direttore di Panorama. Che dirà sulla criptica manovra finanziaria, sulle varie inchieste, sull'eliminazione dei pitbull in Australia, sul divieto del bis di pasta asciutta a scuola? Scopritelo sabato alle 14 ascoltando Non ci sono più le mezze stagioni, su Radio 24 naturalmente. Anche sul canale 700 di Sky.